Siamo arrivati al primo capitolo del trattato di Mishnah di Sukkah, Mishnah Tet, la nona Mishnah. La Mishnah dice così. Ora stiamo parlando, finora abbiamo parlato soprattutto riguardo lo Shechach, la copertura della Sukkah. Ora parliamo delle Defanot, e cioè delle pareti della Sukkah. E la Mishnah fa un caso specifico per capire se potrebbe essere valido per la Sukkah come parete. Vediamo cos'è il caso della Mishnah. Hameshalshel defanot milemala lemata. Se una persona fa scendere le pareti dall'alto verso il basso, come se per esempio se tu avessi una stuoia arrotolata e la srotoli dall'alto verso il basso, ma non arriva fino al pavimento, non arriva fino a per terra. Allora la Mishnah dice: quanto spazio ci dovrà essere tra la parete e la terra per rendere la sukkah invalida? E quanto spazio invece possiamo tollerare e la sukkah rimanga valida anche se c'è spazio? Come si definisce lo spazio? Im gevoha mina aretz shelosha tefachim, se ci sono dalla terra fino alla parete più di un'altezza di 3 tefachim, 3 pugni, una trentina di centimetri. Allora, in quel caso, Pesulà, tutta la Sukkah non è valida perché le pareti non sono valide. Le pareti devono essere almeno entro 3 tefachim dalla terra. Ok? Corrispondenti a Circa una trentina di centimetri. Se la fanno parete arriva dall'alto, cioè esattamente da dove no finisce lo Sechach, la parte superiore della Sukkah, dove comincia la e sua scende la parete fino in basso, ma non arriva fino a terra, e ci sono più di tre tefachim, se ci sono più di tre tefachim, la sukkah non è sì, valida. a dove parte la suca 30 centimetri massimo Vuoto. massimo, se no dopo non è valida, se Ma subito deve entra. essere vuoto. Su che cosa appoggia? Non deve essere vuoto. E su che cosa appoggia? No, Se non William, appoggia per terra. atto. Non deve essere vuoto, giustamente. Se però tu ce l'hai che è vuoto, per esempio hai quattro colonne che poggiano per terra, ok? E su queste colonne metti tipo una stuoia che arriva così, fino in basso, e per te questa è una parete, va bene? Se ci sono più di 30 centimetri fino a terra vuoti, non va bene, ok? Dall'altra parte, tra l'altro, qual è il motivo di questa cosa? Perché tolleriamo la trentina di centimetri, i tre tefachim, perché esiste una regola che è approfondita nella Gemara di Sukkah: Shlosha tefachim ke lavud dame, significa un vuoto di tre tefachim o meno è considerato come se fosse attaccato. C'è una halakha le Moshe mi Sinai, una regola che non è scritta, che è stata trasmessa da Moshe dal Sinai, che Shlosha tefachim ke lavud è come se fosse attaccato. Consideriamo come se non ci fosse un vuoto e di conseguenza è kasher in questo caso e come vedremo anche in altri casi simili. Salute. Ora torniamo al testo della Mishnah. Se invece al contrario, mille mata le mala, se tu hai iniziato a costruire una parete da sotto, per esempio hai fatto così, tanto per fare un esempio, una parete di mattoni, ok? Un muro di mattoni per la sukkah. Hai iniziato dal basso, perché i mattoni non puoi iniziare dall'alto, devi iniziare dal basso per forza. Hai iniziato dal basso e sei arrivato in alto, ma non fino allo Sechach, l'opposto di quello che dicevamo prima. Lo spazio ce l'hai sopra invece di avercelo sotto. Allora la Mishnah dice: Milemata lemala, se stai iniziando dal basso e andando verso l'alto, im gevoha mina aretz. Asara tefachim, se questa parete o muro che hai creato di mattoni, ho fatto solo un esempio, ma parte dalla terra, quindi è posata e tocca la terra, e arriva ad un'altezza di minimo 10 tefachim, cioè circa un metro, in realtà un po' meno, allora la sukkah kshera, la sukkah è kasher, anche se non arriva fino allo Sechach, cioè andando dal basso verso l'alto abbiamo la possibilità di avere anche più spazio di 3 tefachim dalla parete al tetto, alla copertura della sukkah. Qui ne abbiamo qualche immagine, mi sembra, no? Ci sono le immagini di questa Mishnah? No, quella al basso. Ah, dal basso, ok. Ora, la Mishnah porta una opinione di Rabbi Yose. Rabbi Yose Omer, che Shem mi le mata le mala a sarate fachim, Rabbi Yose dice, così come andando dal basso fino all'alto ci bastano 10 tefachim e poi se c'è spazio vuoto fino al tetto va bene, kach mi le mala le mata sarate tefachim. Secondo la sua opinione, anche dall'alto verso il basso bastano 10 tefachim. Tu parti dall'alto, prendi 10 tefachim di stuoia o di parete e in basso rimane vuoto, non fa niente, anche se sono più di 3 tefachim che dicevamo prima nella Mishnah, secondo Rabbi Yose. Ma la halakha, in effetti, non segue questa opinione di Rabbi Yose. Secondo lui, che è appunto un'opinione minoritaria sua, una mechitza, ovvero una parete, teluyah, che pende, che praticamente pende dall'alto e non arriva fino in basso e non possiamo considerarlo attaccato per la regola della Vud che dicevamo prima, per lui quando pende e va bene uguale come mechitza. Noi invece, la maggioranza dei Chachamim non seguono questa opinione, quindi l'alaha rimane come abbiamo detto prima e non come è l'opinione di Rabbi Yose. Ora, la Mishnah parla di un altro caso. Abbiamo parlato innanzitutto se c'è spazio sotto, abbiamo detto massimo 3 tefachim, più di quello non è valida. Se c'è spazio sopra va bene, basta che la parete è di 10 tefachim in basso. Ora, prossimo caso. 10 tefachim sarebbe più o meno? Un'ottantina di centimetri. Un piede. Qual è l'altezza del vescano? Perché c'era l'altezza dell'arca santa. Dell'arca, sì. Allora, un'altra halakha. Irchik et asikuch mina defanot shelosha tefachim. Se la persona ha fatto delle pareti normali, complete, intere, ok? Quindi, dalla terra fino all'altezza dove c'è lo sechach, la copertura, solamente che tra la parete e lo sechach c'è una distanza orizzontale di 3 tefachim o più, ok? Quindi c'è la parete e poi lo sechach non inizia subito. Cioè il tetto è più corto della parete? Esattamente, c'è un vuoto tra la parete che arriva all'altezza del tetto, cioè dello sechach, ma non lo tocca, c'è uno spazio finché inizia lo sechach. Sopra c'è uno spazio, cioè tu ti metti sotto e vedi il cielo, non vedi niente. Se ci sono 3 tefachim o più in questo caso, quindi di nuovo irchik da rachok, se ha allontanato et asikuch, la copertura, lo sechach, mina defanot, dalle pareti, shelosha tefachim, un minimo di 3 tefachim o più, allora in quel caso, pesulah, la sukkah non è valida, perché lo spazio aperto di 3 tefachim o più rende invalido il legame tra la parete e la sukkah, come se fossero due strutture diverse, lo sechach e la parete, ok? Quindi se fosse all'interno di 3 tefachim si applicherebbe la regola che dicevamo prima della Vud, che 3 tefachim è considerato attaccato, la Vud Dame, come se fosse attaccato. Dimmi. Se la sukkah è abbastanza grande, sì, e uno si mette nella parte coperta, non in quella scoperta, rimarrebbe valida? Allora, noi stiamo dicendo che da tutte le parti effettivamente non c'è un legame minimo di 3 tefachim tra le pareti. Ma se ci fossero 2 pareti e un po' che sono sì con lo sechach attaccato, ok, quindi un minimo di 3 pareti, ma anche 2 pareti e un altro po' sarebbe valido, e lo sechach è sì attaccato alle pareti, cioè avvicinato alle pareti entro il 3 tefachim, allora sarebbe sì una sukkah valida e non ci si metterebbe sotto la parte scoperta, ok? Ora, vediamo ancora una Mishnah. Dopo che abbiamo visto nella Mishnah precedente che se ci fosse lo spazio appunto di 3 tefachim sarebbe invalido, sarebbe una sukkah pesula, la nostra Mishnah adesso dirà che se c'è invece sì copertura tra la parete e lo sechach, ma è una copertura che non è valida come sukkah, come sechach, cioè prima parlavamo di uno spazio aperto, ora invece parleremo di una parete, poi di uno sechach, e tra la parete e lo sechach è sì coperto, ma non con qualcosa che sarebbe kasher per una sukkah, come un muro normale, un tetto normale. Significa, per esempio, se io, esiste questo, se io avessi la possibilità di aprire il tetto della mia casa, ok? E mettere sull'apertura lo sechach kasher. Però dall'apertura fino alle mura della casa c'è spazio coperto da un tetto normale. È kasher o no? O vediamo che anche questo è quantificato nello spazio. Bait shenifchat, una casa, cioè una stanza, una struttura normale di una casa, una stanza che si apre. Vesikech al gabave, c'è la possibilità di metterlo sechach sopra. Im yesh min hakotel la sikuch arba amot psula. Qui la quantità diventa molto di più per rendere invalida. Ci deve essere dal muro fino allo sechach un minimo di 4 amot, che è quasi 2 metri. Che è quasi 2 metri per renderla invalida. Se invece è meno di 4 amot e in mezzo c'è lo sechach normale, anche se per arrivare alla parete c'è un tetto normale che non va bene normalmente per una sukkah, la sukkah è valida, ovviamente tu ti metti sotto lo sechach, non ti metti sotto la parte del tetto. Però le pareti che sono legate allo sechach attraverso il tetto, quindi non c'è spazio aperto, se c'è meno di 4 amot, la sukkah rimane valida per un principio che abbiamo già visto nella scorsa lezione, che esiste un'altra regola che si chiama Dofen Akuma. Consideriamo un minimo spazio di tetto, che non è kasher per lo sechach di nuovo, ma se è meno di 4 amot è considerato, diciamo così, sottomesso o secondario rispetto alle mura, e lo consideriamo un unico muro storto. È come se per noi il muro andasse così, per, diciamo, come si dice? Diagonale fino ad arrivare allo sechach. Dofen Akuma si chiama, muro storto. Qual è la misura accettata? 4 amot. 4 amot, 4 cubiti è il massimo possibile per rientrare in questa regola. Per essere kasher, quanto deve essere grande il tetto? C'è un minimo di 7x7 tefachim, che è molto piccolo, diciamo una cinquantina di centimetri, okay, quadri. Non è strano che la Mishnah ci dice che è kasher sotto i 2 metri, però non ti dice 2 metri su, non so se ha capito. No, sì, intende da ogni lato. Questo intende, appunto, da ogni lato ci deve essere dal muro allo sechach meno di 2 metri. Okay. Sì, sì, giusto. Questo abbiamo detto l'esempio della casa, vechen chazer, oppure sarebbe uguale in un cortile, mukefet aksadra, se c'è un cortile che è circondato da un colonnato, exedra, no? Aksadra, aksadra in greco. E significa quindi che le pareti del colonnato, delle case intorno al cortile, potrebbero essere le pareti della sukkah, tu ci metti lo sechach sopra. Però le pareti sono qui, poi c'è il colonnato e poi c'è la sukkah, quindi di nuovo è come se ci fosse qualcosa, spazio, tetto in mezzo tra lo sechach e la parete. Stesso problema che dicevamo prima, anche in questo caso ci deve essere meno di 2, di 4 amot, di circa 2 metri. Ora, un altro caso la Mishnah dice simile, sukkah gedola, una grande sukkah. Per cosa si intende una grande sukkah? Si intende che ha il minimo necessario di sechach per essere una sukkah, ok? 7x7 tefachim, come dicevamo prima. Però shehikifuha è stata circondata come parete, bedavar she'en mesachechimbo. Cioè, invece del tetto, noi abbiamo detto c'è una sukkah e intorno però c'è un tetto normale, poi ci sono le pareti. Questo è un caso simile, ma invece di un tetto fisso c'è qualche altro elemento temporaneo, ma non ci si potrebbe fare lo sechach. Sarebbe invalido per lo sechach. Bedavar she'en mesachechim bo. Qualche cosa con il quale non si può fare sechach. È pasul per lo sechach. Allora, di nuovo la regola è la stessa. im yesh tachtav 400 psula, se sotto lo sechach non valido, intorno a quello valido, ci sono 4 amot o più, allora la sukkah non è valida. Se invece sono meno di 4 amot, meno dei 2 metri che abbiamo detto prima, si applica di nuovo la regola del dofen akuma, la parete che va in diagonale, e diventa e rimane kasher. Quindi la Mishnah ha fatto 3 esempi. Uno, la casa che si apre, che lì la parete e il tetto sono dello stesso materiale, quindi li vediamo come una cosa storta, e finché si arriva allo sechach in meno di 4 amot va bene. Poi abbiamo detto non solo se sono dello stesso materiale, anche se è un cortile circondato da un colonnato, e le pareti sono le pareti delle case intorno, ma il tetto è il tetto del colonnato, quindi sono due cose diverse. Nonostante ciò li consideriamo come una e facciamo di nuovo la regola della dofen akuma. Ok? In questi due casi che abbiamo detto adesso, la casa che si apre e il cortile che ha il colonnato intorno, il problema non è solamente il discorso dello sechach, perché lo sechach stesso è kasher. Ok? Il problema qui è un altro, perché abbiamo studiato in passato ta'ase velo min ha'asui, il fatto che tu, c'è scritto nella Torah ta'ase, devi fare la sukkah e non trovarla già fatta. La domanda sarebbe stata se in questi due casi che tu trovi già le pareti e una parte del tetto fatto, perché fa parte già della casa, allora forse rientra nella regola che non va bene, perché non è ta'ase, non è una cosa che tu hai fatto e l'hai già trovato. Per questo la Mishnah ci dice che in entrambi i casi la cosa, l'alaha è che va bene, ovviamente entro i limiti che abbiamo detto, e poi aggiunge il terzo caso, quella della sukkah grande con la sechach invalido intorno. Quindi qui non è un problema più solamente di una cosa che hai trovato fatto e non hai fatto tu, ma è proprio, c'è, oltre allo sechach kasher in mezzo, c'è proprio sechach non valido. Abbiamo detto che anche qui è valida la regola della parete storta se siamo entro le 4 amot. Ok, concludiamo qui. E prossima volta proseguiamo con l'ultima Mishnah di questo capitolo.